Venivano giù come acqua che scorre dalla breccia di una diga. Soldati senza ufficiali, ufficiali senza soldati. E come l'acqua, lenti e inarrestabili, invadevano il fondovalle, le strade, i paesi. La gente li guardava muta, i soldati in ritirata, mentre un pensiero che non riuscivano ad accettare si faceva strada mano a mano nella loro testa. Quando quel pensiero fu chiaro a tutti, le donne cominciarono a insultarli. Vigliacchi, lazzaroni, maledetti! Per colpa vostra adesso ci tocca fuggire anche a noi! Quelli non rispondevano. Molti si infilavano nelle case, rubando roba da mangiare e da bere. Presto ci furono ubriachi dovunque. E qualcuno, gli austriaci, lo presero prigioniero proprio così. Addormentato per la sbornia. Traditori, li chiameranno i generali. Proprio loro che avrebbero dovuto prevedere l'attacco, visto che spie e disertori li avevano avvertiti. Ma quelli niente. Ciascuno convinto, da Cadorna al generale Capello, di saperla più lunga degli altri. Poi si fece quello che facciamo sempre. Si cercò il capro espiatorio. Per anni si cercheranno i traditori nel fronte interno, che da sempre si opponeva alla guerra. Nei disfattisti, un termine che nasce proprio in quei giorni. Così come la parola caporetto diventa da allora la misura di ogni catastrofe della vita civile italiana. C'era in giro anche una strana euforia. Uomini abituati a marcire nelle trincee, in mezzo al fango, al piscio, al sangue, cominciavano all'improvviso a concepire il pensiero di poter tornare a casa, che la guerra sarebbe finita così e che non c'era una gran differenza tra la vittoria e la sconfitta, se non la constatazione banalissima di essere ancora vivi. In verità, sulle montagne, davanti ai ponti, molti morirono eroicamente per consentire al grosso di scappare oltre il Piave. Uomini di cui non si saprà mai il nome e si ignoreranno le gesta, segnalati ai comandi con l'equivoco nome di dispersi. I conti si fanno con paure vecchie di millenni. C'è poco tempo per pensare. Ma la roba, la casa sono qui, nelle centinaia di paesi che stanno per essere occupati. Ci sono brevi conciliaboli familiari. I vecchi che hanno visto le battaglie del Risorgimento dicono che è solo un passaggio. Usano quel termine ambiguo e consolatorio, passaggio. Ma la guerra è la guerra e l'ignoto fa paura. Gilda di Codroipo, che aveva 7 anni, ricorda che sono scappati fino al fiume. Poi lì, al ponte, la mamma si è fermata ed è tornata indietro dicendo: «E la mia casa? Chi me la guarda la mia casa?» Alla fine restano i contadini. Oltre Piave scappano i borghesi, quelli che possono permetterselo. Nel giro di un giorno diventano profughi. Il governo crea un ispettorato apposta. Funzionerà malissimo. Decine di migliaia di veneti e friulani vengono smistati in tutta Italia, fin nelle isole. Fanno al contrario la strada percorsa dalle tradotte piene di giovani meridionali spediti al fronte. Camperanno male per un anno, guardati strano da concittadini che li considerano mezzi tedeschi. In Toscana diventa popolare un detto per spaventare i bambini. Guarda che ti faccio mangiare da un profugo. Quelli che sono rimasti stanno peggio. Gli austriaci si danno a depredare scientificamente il territorio. A Vienna manca il pane. L'ordine per le truppe che hanno invaso l'Italia è semplice. Arrangiatevi con quel che trovate. Fanno la fame gli occupati e fanno la fame gli occupanti. Ci si ricorda di un soldato che la notte di Natale strappò un pezzo di polenta dalle mani di un bambino. Era inutile chiedere pietà. Muoiono i nostri figli, muoiono anche i vostri. Gli austriaci svuotano i paesi a ridosso della linea del fronte e spediscono gli abitanti dove capita. I profughi interni diventano un'ulteriore disgrazia. Don Antonio Riva, parroco di Segusino, accompagna i suoi sfollati a Fregona. La definisce egoista e inospitale. Ai profughi gli abitanti di Fregona negano un giaciglio nelle stalle, perfino una tomba al cimitero. Don Antonio non è l'unico prete rimasto, anzi, sono rimasti quasi tutti. I sindaci e gli impiegati statali invece sono riparati dall'altra parte. Ognuno ha le sue ragioni. Chi non vuole sottomettersi al nemico, chi non vuole abbandonare il suo gregge. Buone intenzioni, onestà, furbizia si aggrovigliano in una matassa difficile da dipanare. Chi è stato il vero patriota? Chi è scappato o chi è rimasto? Come sempre, le più esposte alle angherie sono le donne. Sono loro spesso quelle rimaste a tirare avanti la famiglia. Inutile dire che gli stupri si contano a centinaia, anche perché il comando austriaco ha decretato che per norma di sicurezza tutti gli usci delle case, anche nelle campagne desolate, devono rimanere aperti. Non è solo con la forza che gli occupanti si prendono le donne. Un favore sessuale è un modo per trovare del cibo o per non farselo rubare. Nascono bambini, non voluti. Per un soldato o un profugo è una realtà amarissima. In casa c'è il figlio del nemico. Gli ricorda ogni giorno la beffa che il destino gli ha riservato. A casa madre e bambino vengono trattati quasi sempre con ostilità, anche con aperta violenza. Non ci sono storie a lieto fine. C'è chi emigra col figlio, chi lo cede a una compagnia di saltimbanchi. Nel dicembre del 1918, Don Celso Costantini apre a Portogruaro l'ospizio dei figli della guerra. È un orfanotrofio per i figli dei vivi, non dei morti. Nelle carte dei ricoveri, per indicare i piccoli affidati all'istituto, si leggono termini come l'intruso, il tedesco, il tedeschetto, il cancro. Per l'affidamento, la procedura è un altro calvario per la madre. Non solo deve separarsi da lui perdendo ogni diritto di genitore, ma deve anche spiegare perché il figlio è nato e portare un'autorizzazione del marito. L'archivio dell'istituto conserva le lettere di madri disperate ai figli e alle figlie da cui si sono dovute separare. Nel corso del tempo qualcuno di loro riuscirà a ricongiungersi, ma tutti saranno segnati dall'essere entrati nel mondo sotto il segno dell'odio. i figli minori e sfortunati di Caporetto. Vanno in prigionia in campi chiamati Theresienstadt, Mauthausen. Nomi che 20 anni dopo diventeranno tristemente famosi. Sono in 300.000 a partire. Uno su tre non torna indietro. La più alta percentuale di caduti tra i prigionieri fra tutte le nazioni in guerra. Perché? Gli austriaci se la passano male. Il blocco navale ha messo alla fame gli imperi centrali. E se non mangia il carceriere, non mangia il detenuto. Ma il prigioniero di guerra è sacro, dice la convenzione dell'AIA. Sì, sacro, ma non grasso. E tutti se ne fregano. E poi in Austria, anche i bambini sanno che l'Italia ha dichiarato guerra a tradimento. E non se lo scordano. Anche i nostri connazionali non ne vogliono sapere. Quelli di Caporetto sono tutti dei vigliacchi. Han preferito arrendersi pensando di sfangarla in prigionia. Traditori. Così a un certo punto il governo vieta alle famiglie di spedire pacchi ai prigionieri. No, ci pensino gli austriaci a dargli da mangiare. Se volete mangiare dovete lavorare. Bastasse. Muoiono lo stesso. Come le mosche. Gli fanno l'autopsia, non c'è più grasso attaccato alle fibre. Il cuore è un muscolo rattrappito. Nel referto scrivono Gefangenen Psychosis, letteralmente psicosi da prigionia. Se lo sono inventato, è un modo elegante per non scrivere morti di fame. Scrive un figlio dalla prigionia al padre a casa. Vi scrivo questa lettera per ripetervi la vita che si fa da prigioniero. E quanti ne muoiono al giorno per fame? 40, 50 al giorno. Che ci danno da mangiare 3 reghe con vermi e brodo di farina amara. E il padre gli risponde. Tu mi chiedi da mangiare, ma un vigliacco come te non mando nulla. Se non ti fucilano quelle canaglie di austriaci, ti fucileranno in Italia. Tu sei un farabutto, un traditore. Ti dovresti ammazzare da te. Non scrivere più, che ci fai un piacere. In realtà a Roma non ci si dispiace che i nostri in prigionia muoiano di fame. Anzi, ci si premura che la notizia arrivi al fronte. Non c'è miglior antidoto alla voglia di diserzione. Lo dice senza mezzi termini al capo del governo il generale Morrone. Bisogna impedire il diffondersi tra le truppe della convinzione che presso il nemico sia possibile trovare condizioni di vita almeno tollerabili. Insomma, devono sapere che chi salta fuori dalle trincee gridando «Kamerad! Kamerad!» passa dalla padella alla brace. I superstiti alla fine della guerra non sono accolti a braccia aperte. Dai luoghi di prigionia all'Italia vanno a piedi. All'arrivo vengono arrestati, spediti in campi dove restano altri mesi. Come mai siete ancora vivi? Dove, come e perché vi siete arresi? Avete intenzioni sovversive? Ne muoiono altre migliaia di loro nei campi italiani, spesso a pochi chilometri da casa. Muoiono anonimi, senza che vengano informate le famiglie. La guerra è finita, ma la patria non li lascia tornare alla pace. Sono i figli bastardi, i ripudiati di Caporetto. poi c'è il Piave. La guerra si ferma lì per un anno intero. E spesso il fiume non è che una pietraia. Gli austriaci ci provano ripetutamente a passare. Gli italiani resistono fino all'ultima grande offensiva, quella del solstizio del 1918. E intanto una cosa diventa inesorabilmente chiara. I nemici si sono spinti troppo in là e il tempo gioca a loro sfavore. Il grande impero asburgico si sfalda nemmeno troppo lentamente. Non c'è più nulla da mangiare, nulla arriva da casa, nulla è rimasto da predare nei territori occupati. Scrive Giovanni Comisso. Ottobre era verso la fine. Da qualche giorno su tutta la zona si era diffuso un silenzio enorme. Tutti ne erano impressionati e si cominciava a sussurrare che la guerra fosse finita. Anche nelle trincee si sparse questa voce. E per impedire che i soldati se ne andassero, i comandi furono costretti a ordinare grandi bombardamenti. Ma il nemico non rispondeva. Quando il 24 ottobre inizia l'offensiva italiana, si capisce subito che la guerra sta per finire. Il 4 novembre, sopra il colle che domina Vittorio Veneto, si sentì d'un tratto venir su dal paese e dalla pianura un'ondata di voci che saliva, come un muggito immenso, e portava su la parola di pace. Nessuno gridava vittoria. E all'improvviso si sentono le campane nelle valli. Ed è un mistero come questo sia possibile, perché gli austriaci si sono prese anche quelle durante l'occupazione per fonderle e farne pezzi di artiglieria. Eppure le campane suonano a distesa e dicono a tutti che è finita. Una guerra vinta così, attendendo e resistendo, dovrebbe essere una lezione da meditare. E infatti quel termine, resistenza, tornerà tra non molto a denominare un altro riscatto dopo un'altra terribile Caporetto italiana. Caporetto, dilettante Caporetto della nostra storia, ci insegnano qualcosa su noi stessi molto più che le vittorie. Nella sconfitta è più chiaro vedere chi siamo.